Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, mancano 4 giornate alla fine del campionato, ma 2 avventure di primo piano sembrano, ma forse sono già finite sin da ora, e sono quelle di Spalletti alla Roma e quelle di Ranieri alla Juventus. Una terza, quella di Ibrahimovic all'Inter, a sua volta ha tutta l'aria di essere addirittura d'arrivo. In classifica chiusa, richiusa, la lotta al vertice resta apertissima, è la corsa al quarto posto, che con questa Juve in caduta libera potrebbe anche diventare un terzo, o per Fiorentino o per Genoa, e soprattutto resta aperta la lotta salvezza. In buona parte dipenderà domenica prossima dall'esito del confronto diretto tra Torino e Bologna, dopo che lo spareggio, il primo di questa serie di spareggi, tra Bologna e Reggina sabato è finita rilanciando le speranze dei residui, rilanciando qualche speranza dei calabresi. Fine settimana all'insegna dei nervi a Torino, a Roma, a Milano, da parte del pubblico, da parte dei giocatori che hanno più o meno reagito. Converrà ricordare che a Torino si sarebbe dovuto giocare a porte chiuse e forse sarebbe stato meglio per tutti, ma proprio per tutti. E poi gli scontri, lo scontro in spogliatoio tra Ranieri e Camoranesi, quello in campo certamente non paragonabile, ma nemmeno gradevolissimo, la spinta dell'arbitro Farina a Prandelli, il placcaggio di Ballardini a bordo campo a Palermo con un giocatore del Cagliari, e poi tutto questo a far da preludio al gran finale di Genoa-Sampdoria, il posticipo di ieri sera con 3 espulsi approssimati per difetto, perché avrebbero dovuto essere parecchi di più, 10 ammoniti, un numero di falli superiore ai 50, insomma numeri da guerriglia urbana più che da un derby di calcio, come ormai purtroppo a Genova succede in maniera pressoché abituale. Tra le non molte cose belle del campionato, il grande gol di Karja, il giocatore del Siena, che insomma si è fatto 60-70 metri palla a piede e poi senza cambiare passo ha incastrato il pallone nel sette da fuori area, e questo è stato il primo dei 2 gol del Siena al Napoli. Tra le cose da belle, anche queste da segnalare, il fatto che Xavier Zanetti ha battuto ieri il record assoluto di sempre di presenza di uno straniero nel campionato di Serie A. C'era José Altafini fino a ieri in testa con 459 partite giocate in Serie A, e Altafini aveva giocato nel Milan, poi nel Napoli e poi nella Juventus. Zanetti ha sempre soltanto giocato nell'Inter e sabato sera ha centrato la presenza numero 460. Da questo momento è il recordman. In attesa dei vostri interventi e delle vostre prenotazioni, i numeri che sapete, il ripasso di alcuni dei contributi vocali più significativi della giornata, del fine settimana. Ranieri: è tanto che non riusciamo a vincere, è tanto che subiamo gol, quando prima eravamo una delle migliori difese del campionato. Adesso i gol continuiamo a farli, però li subiamo, per cui dobbiamo correre ai ripari, perché così non va bene. Beh, sicuramente è una partita negativa, poi se peserà non starà a me dirle e giudicarla. Io dico che adesso non è il caso di dire non era competitiva, adesso dobbiamo far di tutto per mantenere questa posizione in classifica e qualificarci per la Champions League senza i preliminari. Questo adesso è il nostro più grosso obiettivo. Io dico che quello che stiamo facendo adesso non va bene, stiamo sporcando un campionato che era ottimo fino a un mese fa. Questa è la verità. Adesso parlare di quelli che erano i programmi non mi sembra il caso. Mi sembra il caso invece di cercare di porre rimedio a questa situazione. Salvare il salvabile sembra ormai l'ultimo obiettivo stagionale rimasto alla Juventus. Non molto diversa la fine di un ciclo più lungo e anche più foriero di soddisfazioni, quale è stato quello di Spalletti alla Roma. Sentiamo. Secondo me è ora di cambiare, quando non c'è più la volontà, non c'è più la passione poi di far bene il proprio lavoro. La passione è quella che sposta, e lì allora, quando uno non ha più stimoli o sente di non poter dare più niente, e soprattutto a quella che è la sua passione da mettere quotidianamente sul campo. Questo era Spalletti, potremmo sentire anche Ancelotti perché insomma, in ambedue i casi si è parlato, sia nell'intervento di Ranieri che di Spalletti, si è parlato di un frettolosamente, soprattutto da parte del Romano, di una sorta di bilancio, ma anche di una proiezione sul futuro. La squadra più in forma del momento è certamente il Milan. Il Milan ha ritrovato i risultati, ma anche il filo del gioco che quest'anno è andato sempre un pochino a corrente alternata. Questo è frutto indubbiamente anche di scelte drastiche che Ancelotti ha fatto, a cominciare dalla scelta di liberarsi di Ronaldinho. Sentiamo Ancelotti. Sì, mancava solo questo, adesso ci mancava anche questo, adesso ci manca l'elicottero che mi viene a prendere e poi mi porta stasera a cena con Abramovic. State attenti perché può succedere. Ieri ho detto che dobbiamo pensare al quarto posto e ridico le stesse cose, dobbiamo pensare a tenere lontani i quarti, perché è la Fiorentina che sta viaggiando molto bene, ci mancano 4 punti e vedremo di riuscire a farli nelle prossime 4 partite. Io sono molto realista, la base rimarrà inalterata anche il prossimo anno, quindi è chiaro che in questo momento Inzaghi sta facendo cose straordinarie, però Inzaghi ha 36 anni, quindi sarà sicuramente anche l'anno prossimo. Abbiamo dietro Patto, c'è Boriello che può prendere, diciamo, il suo posto in futuro, e quindi la base credo che rimarrà inalterata anche il prossimo anno. Quello che fa, credo, la differenza è che siamo tornati a giocare come sapevamo, e questo è quello che ci dovrà accompagnare anche in futuro. Il fatto che i terzini in questo momento aiutano molto più il gioco d'attacco ci avvantaggia notevolmente, perché, diciamo, i terzini avanzati ci permettono di avere più libertà poi nelle zone centrali del campo. Questo ci dà vantaggi avendo Kakà e Seedorf anche in buona forma. Il Milan domenica sera, nel posticipo di domenica sera, ospiterà la Juve, e quello sarà il regolamento di conti definitivo per il secondo posto, che in questo momento vede ovviamente favorito il Milan, anche se poi su quel tipo di partite è sempre meglio andarci piano. Alcuni lettori oggi sono severi. Luciano Labiella scrive, per esempio: pietoso lo show di Ibra, pietoso il derby genovese e non bello il ridicolo show di Buffon nell'intervallo. Trovo centrato anche questa terza notazione. Stefano da Genova scrive invece: chiedo scusa, ma il derby di Genova è sempre corretto ma rude. Il problema di ieri è stato un arbitro veramente vergognoso. Di vergognoso ieri sera, caro Stefano, c'è stato il comportamento dei giocatori in campo. Morganti non è stato assolutamente vergognoso, il suo assistente ha sbagliato 2 fuorigioco ed è venuto prima il gol della Sampdoria e poi quello di Milito, il 2-1. Ma qualunque arbitro, qualsiasi arbitro ieri sera, come nel precedente derby genovese, ma ieri sera a maggior ragione, alla fine si sarebbe dovuto arrendere alla voglia di rissa ad ogni costo da Angiporto, in piena regola, trattandosi di un derby genovese, alla voglia di rissa ad ogni costo che c'era sul campo e che i protagonisti in campo respiravano dai cosiddetti spalti. È un discorso già fatto per il derby di Genova, mi pare che anziché migliorare peggiori a vista d'occhio. Lorenzo ha chiamato da Belluno, buongiorno. Buongiorno dottor Granzini. Buongiorno a lei. Volevo fare 2-3 considerazioni veloci. La prima è che Ranieri, purtroppo per lui, è arrivato al capolinea, ma neanche tanto per colpa sua, ma per una serie di circostanze che si sono creati nel corso della stagione. E giustamente la dirigenza della Juve gli farà finire il campionato, ma poi probabilmente si sceglierà qualcos'altro. E poi un'altra cosa sul derby di Genoa. Ieri è stata una cosa veramente, io ho visto la partita, è veramente stata una cosa tristissima, come è stato triste il gesto che ha fatto Ibrahimovic verso i suoi tifosi. E terza cosa, volevo chiederle se secondo lei il campionato inglese è così bello come dicono, come tutti decantano, visto che le prime 4 fanno campionato a sé. Non si vede mai una squadra di centro classifica, non parliamo delle ultime che abbondantemente prendono 5-6 pappine ogni partita contro le prime 4, ma non si vede mai una squadra di centro classifica che riesce perlomeno a prendersi un pareggio o una vittoria risicata, eccetera. Cioè, mi sembra un campionato a sé le prime quattro, quindi non so cosa ci sia di bello nel campionato inglese. Opinione mia personale, ecco. L'ascolta in radio. Intanto che ha giocato in maniera molto più civile e meno tribale che da noi, c'è più qualità in campo, ci sono stadi pieni di gente che ci va con la famiglia, e poi è vero che c'è questa disparità tra le prime squadre e le altre, esattamente come accade da noi in Spagna sono le solite due poi alla fine a dominare quest'anno, anzi è una in particolare, ne parliamo più tardi, ancora più del solito. Non è vero che siano poi così, cioè che non ci siano possibilità per gli altri di competere, non ci sono di inserirsi in alta classifica a gioco lungo, perché queste sono squadre indubbiamente superiori. È un po' il tallone d'Achille di un calcio che per altri versi è splendido, che è quello inglese. Da Brescia ha chiamato Valeriano, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini, ma io devo dire che da tifoso juventino sono abbastanza triste e abbastanza deluso, soprattutto quando sui giornali, sulle televisioni si sente dire oramai il ciclo di Ranieri è finito, Ranieri ha fallito, Ranieri di qua, Ranieri di là. Io devo dire che soprattutto per il campionato che è stato fatto e con i mezzi con cui è stato fatto e anche per la signorilità del personaggio, l'impegno che mette sul suo lavoro, io ci ho creduto molto in questa Juve, ho creduto molto in tutti i talenti che sono stati scoperti e credo, mi sembra di capire, che nel corso dell'anno ne sono stati scoperti parecchi di giovani ragazzi che hanno tenuto in piedi quasi da soli la squadra. E dopodiché, a partire dalla mancata qualificazione in Champions, io l'ho notato, ma credo che la partita di ieri l'abbia ampiamente dimostrato, credo che ci sia stata una frattura o comunque una tendenza da parte della vecchia guardia o comunque di alcuni giocatori a privilegiare le proprie contrapposizioni, i propri interessi, le proprie posizioni all'interno dello spogliatoio rispetto al bene della squadra. La società non ha supportato nel giusto modo un allenatore serio come questo, dimostrando che alla fine, dopo il male che gli altri hanno fatto a noi, compreso la triade, questa volta siamo riusciti e riusciremo a farcene per molto tempo da soli e dell'altro. Questa è un'ipotesi non da scartare. Stefano, l'interlocutore di prima, riscrive, dice: voglia di rissa da parte della Sampdoria, non da parte nostra, ho rivisto alcune immagini, eccetera eccetera. Stefano, quando una partita degenera come quella di ieri sera, non c'è uno che può dire all'altro di aver cominciato. Se vuole che la dica la mia opinione personale, io penso che abbiano invece cominciato quelli del Genoa, non solo ieri ma praticamente nell'intero campionato, perché il Genoa gioca un calcio molto bello ma troppo troppo aggressivo. Non è la prima volta che lo dico, è un calcio che spesso porta i suoi interpreti ad andare fuori giri e lo rende esteticamente assai poco gradevole. Questo al di fuori ovviamente delle passioni di parte. L'UEFA ha comunicato agli arbitri delle due partite di semifinale di ritorno di Coppa Campioni. Allora Rosetti, lo si sapeva, arbitrerà Arsenal-Manchester, mentre Ovrebo, il norvegese, a Ovrebo toccherà Chelsea-Barcellona in programma mercoledì, mentre l'altra partita, quella di il derby inglese, è in programma già sin da domani sera. Nella voglia di rissa di ieri sera, scrive Alex da Udine, ho notato con piacere il comportamento di Cassano, che qualche tempo fa ci sarebbe cascato. Verissimo, sono d'accordo con lei. Cassano ha dato segnale di maturità ieri sera in campo, è stato poi ammonito a sua volta per aver chiesto l'ammonizione a un avversario, chiedendo più o meno, se ha visto la fumetto all'arbitro, se quante ne doveva ancora prendere perché un avversario fosse ammonito. Devo dire che nei panni di Cassano avrei fatto quella domanda, l'avrebbe fatta probabilmente chiunque, perché l'ha lasciato menare, direi oltre il giusto. Tocca a Franco da Modena, buongiorno. Buongiorno Garanzi. Di che? Devo intervenire sulla crisi della Juve, sono juventino da sempre. E sono dispiaciutissimo per come viene trattato Ranieri dalla stampa, dalle TV e da una parte dei giornalisti, ma soprattutto dai tifosi di Torino. Vorrei soffermarmi solo su qualche particolare, tipo il rientro dei fenomeni, e per fenomeni intendo il signor Buffon, il signor Camoranesi, e Zanetti, che è sempre stato infortunato, Trezeguet, infortunato da sempre, disponibile da un mese, e direi che il solo Nedved, con 7 reti e qualche ottima prestazione dei 5 campioni rimasti, ha avuto un buon rendimento, insieme al girone di andata di Del Piero. Ma mi volevo soffermare soprattutto su Buffon. Sì, in sintesi, Franco, perché stiamo andando lunghi. Nessuno lo critica. Due gatte clamorose con il Chievo. Due clamorose, la prima e la terza. Una Genova sul secondo gol, che era fuori 3 metri. A Reggio Calabria, cross nell'area piccola, è andato sul primo palo, è entrato col pallone in porta. E ieri ha preso il gol del 2-2 da un metro dalla riga, da un metro dalla porta. Infatti Franco, io credo che le sceneggiate di ieri di Buffon all'intervallo possano, io ho letto molti articoli, che tenerezza fa questo Buffon, eccetera eccetera, insomma, io restavo in spogliatoio a sentire le urla di Camoranesi e di Ranieri, oppure non so, facevo un pezzetto di sottopassaggio, ma non andavo in campo, non io, sto dicendo il fatto di andare invece in campo a fare un po' di cinema afflitto mi è sembrato di dubbio gusto, soprattutto poi per il fatto che, dato che ogni tanto arriva la paga del sabato, è arrivato l'ultimo gol dove sinceramente bastava mettere fuori la mano a vedere se pioveva. Parlo di un grande portiere come Buffon, non sto parlando di un portiere normale, e voglio vedere come la schiacciava in porta il leccese. Marco ha chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno, signor Granzini. Dica. Io sono un tifoso romanista, un po' deluso quest'anno, volevo parlare un po' della crisi della Roma. Mm-hmm. Praticamente io, da quello che vedo io, che a parte che hanno sbagliato tutta la preparazione, poi soprattutto quest'anno hanno deluso la grande, i senatori. Parlo dei De Rossi, dei Totti, purtroppo, che non puoi dire niente, che è sempre rotta. I Taddei, i Perrotta, lo stesso Max Fest, che l'anno scorso è stato uno dei difensori migliori del campionato, quest'anno veramente non per caso la Roma è stata la difesa peggiore, cioè una roba allucinante. Cioè, mi dico solo, a me dispiace per Spalletti, però secondo me Spalletti, vabbè, a parte che solo Firenze ha fatto un errore, perché far giocare Cassetti la centrale appena rientrato. Cassetti centrale effettivamente non è stata male, però insomma è che a un certo punto le provi tutte quando non funziona. Non dimenticherei mai che Spalletti ha creato un ciclo, ma lo ha creato molto più di quanti altri allenatori lo abbiano creato, perché poi noi abbiamo la memoria corta, ma Spalletti aveva ereditato la Roma una situazione estremamente difficile, ha dovuto fare di necessità virtù, non aveva un attaccante di ruolo e, col consenso dell'interessato ovviamente, si è inventato Totti in quel ruolo, è nato quel gioco volante che è stato a lungo il miglior calcio che si potesse vedere in Italia. Adesso, dopo un po', per una serie di ragioni, quel ciclo è finito. La principale delle ragioni è la poca salute di Totti, questa mi sembra evidente, e se un ciclo poi finisce è giusto riaprirne un altro. Lo fanno un po' in tutte le parti del mondo, lo si è costretti a fare in tante cose difficili della vita, pensi un po' se deve essere un problema farlo se si parla di pallone. Franco, chiamato da Torino, buongiorno. Buongiorno signor Garazzini, complimenti per la trasmissione. Niente, io sono tifoso interista, ma mi piace il calcio, ho guardato il derby di Genova e ho un po' i brividi, perché tutta la partita del derby c'è stato solamente 40 minuti di gioco. E se vado a vedere Arsenal Manchester cioè proprio del ridicolo, solamente 40 minuti di gioco, poi il resto tutto abbiamo visto i giocatori, il resto pedate, risse, no, imboscate, cose, ma alla fine però erano tutti felici e contenti. Ora capisco, per carità, capisco la gioia di parte, poi vincere un derby ti dà sempre un gusto anche particolare, non speciale, sicché, per carità, è sempre stato così e sarà sempre così. Ma se appena ti sollevi un attimo dal tifo, quello di ieri sera è stato veramente uno spettacolo, non, insomma, per cui gli aggettivi gli aggettivi da usare per qualificarlo sul serio sarebbero abbastanza impegnativi, abbastanza grevi, quindi lasciamo stare, perché non è il caso di affannarsi a cercarli. Andrea ha chiamato dalla provincia di Como, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Io lascio la Juventus, mi volevo riferire alla dirigenza. Secondo me si stanno contraddicendo, perché hanno fatto una previsione futura all'inizio del loro ciclo in cui comprendeva l'acquisto dello stadio, una vittoria nel 2011, insomma avevano fatto una previsione realistica che giustamente per adesso si sta cercando di costruire. Quindi secondo me adesso la dirigenza la prima cosa che dovrebbe fare è stringersi intorno all'allenatore che loro hanno scelto e confermare il fatto che si sta realizzando ciò che loro avevano previsto. Cioè, poi non è così scontato che nel 2011 si vinca, però era previsto che quest'anno la Juve doveva qualificarsi in Champions. Anzi, poi ho finito, io comincio veramente a temere che la Juve non riesca a qualificarsi, perché Fiorentina e Genoa sono a 6 punti, la Juve non riesce più a vincere e sono davvero preoccupato. Quindi secondo me dovrebbero stringersi intorno all'allenatore, che poi automaticamente caricherebbe la squadra, e i vecchi che la smettino di piantare i piedi, perché basta, non servono più a mio modo di vedere. Non credo che andrà così, Andrea, a occhio. Penso proprio che andrà in maniera molto diversa, e non escludo che Ferrara debba tenersi pronto già a stretto giro di posta. La società è mancata in maniera clamorosa in questa da quando le cose si sono complicate, mi pare che non abbia saputo fare la sua parte, e se non richiamare all'ordine perché facesse la sua parte il tecnico e la squadra. Mi pare però che la loro sia rimasta un po' indietro. Jonathan, provincia di Pisa, leggo bene, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Senta, vorrei sapere da lei cosa ne pensa sui commentatori TV, che mi fanno impazzire, nel senso, con tutti quei superlativi che levano il gusto, proprio levano la scaletta tra una buona azione e un'eccellente azione. Partono tutto con fantastico. Sì, sono leggermente ridondanti, in effetti, non è tanto una questione di aggettivi, è una questione di superlativi. Si parte dal superlativo e sotto non si può scendere per ragioni contrattuali. Non vale per tutti, però ormai la maggioranza, e poi gli scatta un meccanismo di imitazione che purtroppo è sempre verso il peggio e non verso il meglio. E il meccanismo di imitazione fa sì che ormai, anziché quelli bravi e quelli sobri, si tende a imitare sempre di più il piazzista come genere. Ma insomma, non è una grandissima novità. 60 anni fa, il 4 maggio, ed era anche allora un lunedì, cadeva a Superga il Grande Torino. L'appuntamento con la storia, nella rubrica quotidiana consueta, affidata a Nicola Filippone. Sembra ieri. Anche chi non sa di sport, anche la donnetta che mai ha sentito nominare, ma è impossibile, Mazzola, Bacigalupo, Castigliano, Rigamonti, anche gli intellettuali che non hanno mai letto le firme di Renato Casalbore, Luigi Cavallero, Renato Tosatti, i giornalisti il cui destino ha accompagnato nella morte gli eroi delle loro creature, oggi si sono sentiti stringere il cuore. Così sul Corriere della Sera Dino Buzzati descrive lo sbigottimento che il 4 maggio del 1949 attanaglia l'Italia intera per la sciagura che ha colpito il Grande Torino, la squadra più famosa d'Europa, avviata a vincere il 5° scudetto consecutivo. In un pomeriggio piovoso, l'aereo su cui viaggiavano la squadra e i giornalisti al seguito, proveniente da Lisbona dove i Granata avevano disputato un amichevole contro il Benfica, si abbatte sulla collina di Superga, alle porte di Torino. Le vittime sono 31. I funerali, trasmessi in diretta radiofonica, vengono celebrati nel capoluogo piemontese il 6 maggio, alla presenza di una folla di oltre 500.000 di persone. Gli eroi, scrisse Indro Montanelli, sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. E così i ragazzi crederanno che il Torino non è morto, è soltanto in trasferta. Una filastrocca, Bacigalupo, Ballarin, Maroso, Grezza, Rigamonti, Castigliano, Menti, Loic, Gabetto, Mazzola, Ossolo, una filastrocca che con qualche variazione, Martelli, Ferrari, Squarto, Fadini, accompagnò anche la rinascita del paese dopo la guerra. Quel Torino è stata certamente una squadra di club tra le più grandi di sempre, anche se allora mancavano due riscontri, mancava il riscontro europeo, quello delle coppe, quello che ti permette di confrontarti con il calcio di club degli altri paesi, e mancava certamente il riscontro televisivo che non dava la possibilità di divulgazione. Se però dobbiamo fidarci dei testimoni oculari di allora, di grandi giocatori e di grandi allenatori che sono già passati o che ancora ci sono e hanno la possibilità di offrire la loro testimonianza, la loro valutazione di quella squadra è certamente tra le più grandi di sempre. Adesso con la TV che ha fatto diventare il calcio un villaggio globale, tutto funziona diversamente e può capitare di assistere, per esempio, come è successo sabato sera, a una partita di bellezza assolutamente accecante, quella che il Barcellona ha giocato e ha vinto sul campo del Real Madrid. Il risultato finale è stato di 6-2. Chi come me ha visto la partita può certamente testimoniare che se finiva 12-1, 12-3 o 12-2 non c'era assolutamente niente, non ci sarebbe stato niente da dire. Il calcio che ha giocato il Barcellona sabato sera, personalmente in tanti decenni di pallone faccio fatica a ricordarlo a questo livello di perfezione. E allora, visto che il martedì è il giorno che noi dedichiamo abitualmente al calcio internazionale e gli approfondimenti del calcio internazionale, vi inviterei sin d'ora a scrivere, a mandare delle mail, certo mail, perché se andiamo per SMS intasiamo la posta qui e succede un problema. Quindi gli SMS eventualmente domani direttamente in onda, in diretta, prima delle mail se volete, ricostruendo qual è stata secondo voi la più bella partita da parte di una squadra di club che vi sia capitato di vedere, tenendo presente che il parametro del Barcellona di sabato sera è un parametro estetico, e sto parlando soprattutto di estetica, non di risultato, è un parametro assolutamente impegnativo. Riprendiamo il dialogo con gli ascoltatori e ripartiamo da Trento, dove c'è Gianfranco. Buongiorno. Ah, buongiorno, ciao Garanzi. Innanzitutto un reverente pensiero al Torino, veramente il cuore. Sono un vecchio juventino. Vorrei dire due cose sulla Juventus. Anzitutto, quei 68 infortuni, una cosa. Fortune tra quattro squadre. Secondo problema è Buffon. Non vorrei che Buffon facesse tutte quelle commedie per andare via, perché io non ci vedo, però sentendo un po' di altri che dicevano fare quelle parate che non sono parate, cioè non lo so, io credo che a questo punto faccia un po' apposta per andare via e anche a prezzo stracciato. Ascolto per radio, grazie. Gianfranco, beh, insomma, a prezzo stracciato penso che se lo possa levare dalla testa lui, come Ibrahimovic, se è per questo. Io credo che sia un po' in genere, nel senso che Ibrahimovic sì, cioè ha studiato palesemente una strategia di divorzio, no? Non mi pare il caso di Buffon, o comunque tenderei a non crederlo, visto che Buffon è uno di quelli che 3 anni fa avevano invece deciso di restare. È vero che in 3 anni le cose cambiano, è vero che la delusione di questo periodo, di questa settimana, è indubbiamente forte, è vero che c'è una parte di responsabilità sua che lui è disposto a riconoscere come tutti e come tutti i giocatori, in maniera solo molto parziale, però insomma che stia recitando per andarsene non direi. L'allenatore del Genoa, scrive Diego, si è lamentato perché l'arbitro non gli ha lasciati giocare. Testualmente ha detto: ha tolto il gusto nei contrasti. Io questa frase non l'ho letta, certo proverò a documentarmi perché insomma, sarebbe un po' impegnativa. Come definirebbe l'ennesimo furto nei confronti del Torino? Scrive Fulvio da Torino. Lo definirei un errore arbitrale, un errore d'un assistente all'ultimo minuto, un errore indubbiamente grave, ma giustificato dal fatto che c'è un altro giocatore del Torino in traiettoria che fa un movimento strano e che può portare all'annullamento del gol. Dopodiché, caro Fulvio, se prima di parlare di furto bisognerebbe documentarsi fino in fondo. Quello che segna il gol annullato, cioè Franceschini, era uno che aveva causato due rigori contro il Torino prima, se Farina li avesse visti. E quindi prima di parlare di furto vediamo di andarci pianino. Ha chiamato Pier Giorgio dalla provincia di Padova, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Grazzini, grazie della possibilità di intervenire. Due semplici, brevissime cose. Una, sono tifoso del Milan e quest'anno ho visto la mia squadra in TV diverse partite e non mi sembra di aver visto un gran bel gioco, se non le ultime partite qua di campionato, e che comunque, non lo so, adesso forse perde merito delle squadre avversarie che non sono in condizioni ottimali al momento. E comunque, ecco, sì, appunto, questa forse è un po' di fortuna di campionato finale, ecco, diciamo così. Dopodiché, l'ultima cosa, sulla Juventus, secondo me Ranieri quest'anno con la squadra a disposizione ha fatto, non dico dei miracoli, ma ha fatto un gran campionato. Purtroppo anche lui è arrivato alla fine e paga forse lo sforzo fatto fino qua, ecco, tutto là. Sì, sì, anche lo sforzo, indubbiamente, lo sforzo, gli infortuni, però lo sforzo, gli infortuni, eccetera, quelli cominciano ad essere responsabilità anche del tecnico, perché fino a un certo punto arriva magari la sfortuna, la casualità, poi ci sono anche dei metodi di preparazione, ci sono delle alternanze, insomma, non, io credo che quando si arriva a un finale così, la responsabilità sia sempre un po' di tutti. Poi, dato che le responsabilità scendono dall'alto, sarei per attribuire le principali alla società. Ranieri in questo momento si trova tra la società e i giocatori. Alcuni dei giocatori non hanno gradito di essere stati trattati come altri. La personalità di Ranieri, la cattiveria di Ranieri probabilmente non è paragonabile a quella di altri allenatori. In certe situazioni invece ce ne vuole una dose robusta. Sto pensando a Capello, giusto per non far nomi, e quindi tutto questo mixato insieme sta producendo questa situazione. Luca dalla provincia di Padova, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, complimenti per la trasmissione. Allora, io sono un juventino pessimista. E se andiamo avanti così neanche ai quarti arriviamo. Sì, non è più così lungo, Luca, il campionato. Mancano quattro giornate. Mi faccia prendere i sacri testi. Dunque la Juventus ha 66 punti, la Fiorentina ha 61, il Genoa ha 60. Quindi deve farsi rimontare 5 punti dall'una o 6 punti dall'altra, avendo la trasferta a Milano di domenica sera e poi giocando due partite in casa contro Atalanta e Lazio e una fuori a Siena. Mi sembra che indubbiamente la squadra è in caduta libera, poi da lì a precipitare a questa maniera mi sembra che il salto sia ancora abbastanza grosso. Franco in linea da Roma, sì, buongiorno. Ciao Gigi, grazie di averti ritrovato, era un po' che ti avevo perso. Sì. Senti, noi ci conosciamo? Come? Ci conosciamo di persona? No, mi ricordo di te quando partecipavi in televisione. Dica. No, volevo dire due cose velocissime. In una mi avevano preso visionario tempo fa. Se potevi fare nella tua radio delle campagne radiofoniche abbastanza martellanti, no, al fine di rendere il nostro calcio un po' più credibile anche a livello internazionale, per far togliere tutte queste gabbie metalliche per i tifosi esterni, fossati, steccati e quant'altro, anche per rendere il nostro calcio più credibile di fronte a paesi come la Spagna, la Germania, la Francia, e far sì che anche gli arbitri sbagliano anche in buona fede. Ma temo che abbia sbagliato indirizzo, Franco. Io sono per alzarle ancora di più ste gabbie, da quando vedo, per i comportamenti che vedo dentro il campo e fuori dal campo. Queste sono libertà che si possono concedere, beati loro, i paesi maturi e i paesi civili. Noi siamo fermi, non so, faccio l'ultimo degli esempi che mi vengono in mente, l'ultimo in senso cronistico, sabato pomeriggio, sabato sera, un agguato di tifosi dell'Atalanta che nulla c'entravano, perché il Brescia aveva giocato in casa dell'Albino Leffe, quindi non contro l'Atalanta, con assalto al treno, devastazioni e dintorni, la gente che continua a frequentare le curve, se vuole gliela raccomando. Io ripeto, non sarei semmai per alzarle. Non sono assolutamente maturi i tempi e non sono assolutamente maturi i frequentatori del nostro pianeta pallone. Ranieri, scrive Nicola Magnezzi, è lasciato solo in mezzo tra vecchi e giovani, e qualsiasi decisione fa, giusto o sbagliata che sia, viene sempre giudicata in maniera negativa. Mi spiace che tutto cada addosso a lui, perché è una brava persona. Alessandro, Alessandro Venerato invece da Bologna scrive: concordo sulla bellezza del gol di Cargià, ma aggiungerei anche il tocco con il quale Vargas si porta avanti il pallone in occasione del gol della Fiorentina. Io aggiungerei invece che in occasione di quel tocco non riesco a capire come faccia quel portiere, cioè Sereni, a farsi passare il pallone di sotto, o meglio me lo spiego collegando quel mancato intervento all'intervento finale, quando prende il pallone con le mani e non si accorge di essere un metro fuori area, e per questo salterà Torino-Bologna il prossimo, che è lo spareggio per restare in Serie A. E non è detto però per i tifosi del Torino che tutti i mali vengano per nuocere. Stefano ha chiamato da Pisa, buongiorno. Buongiorno dottor Granzini, innanzitutto grazie, perché la discussione sul calcio con lei assume quei connotati culturali che in Italia paurosamente languono. Beh, questo è un grande complimento, non sono certo di meritarlo, ma grazie comunque. Per me sì. Comunque volevo fare una considerazione. La Juventus, fin troppo criticata attualmente per il rendimento che ha, ma comunque palesa evidenti limiti di organico e anche di tenuta dello spogliatoio. Il Milan adesso sta andando bene, ma indubbiamente, anche se almeno a me pare che sulla carta abbia fra la triade di testa forse l'organico migliore, ma certamente ha bisogno di un buono e intelligente restauro. L'Inter non mi sembra esente da pecche. L'anno prossimo, se togliamo Ibrahimovic, non so quali altre punte di diamante a parte Balotelli abbia per esempio davanti. E Mourinho non ha fatto quella tabula rasa che da buon Attila, da quale sembrava proporci, avrebbe dovuto fare dappertutto. Mi pongo a conclusione di questo breve ragionamento una prova di domanda. Quale potrà essere fra questa triade di testa che abbiamo attualmente, in prospettiva dell'immediato futuro, quella che può avere secondo lei i margini migliori di miglioramento? Non è facile da dire sinceramente, perché dunque di queste tre è nettamente più forte l'Inter, no? Se parliamo di rosa e se parliamo di qualità. Però lei parte dal presupposto che perde Ibrahimovic, e quindi poi lei dice non ha altri attaccanti in rosa. Beh, calma, con 100 milioni di euro grosso modo che potrebbe ricavare da Ibrahimovic, qualcosina davanti, e non solo davanti, può comprare. Però il telaio della squadra non è giovane, e quindi in buona parte va cioè in prospettiva comunque non, una grande durata, un grande futuro non lo vedo. Anzi, il Milan ha come sempre la sua cifra di gioco che ogni tanto salta fuori, però è intenzionato a cambiare guida tecnica, o comunque la guida tecnica è intenzionata a cambiare aria, mettiamola come vogliamo. Quest'anno ha perso una grande occasione, perché adesso cioè noi la memoria l'abbiamo cortina, no? Ma il Milan era il favorito di questa stagione, per la semplice ragione che aveva comprato, era convinto di aver fatto un grande investimento con Ronaldinho, nonostante lo scetticismo di alcuni, era convinto, e soprattutto era l'anno in cui non aveva le coppe, e non avendo le coppe aveva un grande vantaggio da questo punto di vista, e invece così non è stato. La Juventus fino a un mese fa sinceramente sembrava la più futuribile, perché di tutti delle tre era quella che per forza, non per amore, e la forza era la retrocessione in B, aveva comunque dovuto investire su giovani e affidarsi ai giovani, e quindi da lì avere un buon telaio di squadra. Stanno rovinando tutto oggettivamente proprio in questo finale di stagione, e quindi non so poi perché finali come questo in grandi squadre come la Juve lasciano macerie, poi non bisogna vedere cosa si riesce a ricostruire dopo, e forse non sarà facilissimo. Sicché dire delle tre, fino a un mese fa l'avrei detto Juventus, adesso qualche dubbio in più ce l'avrei. Da Lucca, chiamato Alessandro, buondì. Buongiorno ragazzi, innanzitutto mi complimento per il ciao Gigi del signore di prima, che sembrava suo cugino. Suo cugino, infatti. Mi ha fatto ridere, insomma. Ma per un attimo ho pensato, ho detto, è un parente con st'accento, non mi risultava. Però è stato simpatico, dai. Ma certo. P- Poi sono contento che per la prima volta non si parla almeno di Mourinho, ma abbiamo altre piccole discussioni da valutare. E l'unica cosa, mi sembra ingrato tutto ciò che si sta creando intorno a Ranieri. Lei dice lascia macerie un finale di campionato, ma ricordiamoci che Ranieri ha preso delle macerie da un grosso terremoto, quindi la ristrutturazione di una casa sicuramente ha bisogno di tempi. No, le macerie, mi scusi Alessandro, le macerie le ha prese Deschamps però, cioè il grosso delle macerie dello scavo l'ha fatto, poi cambiamo metafora perché non è tra le più felici, però il lavoro più difficile all'inizio l'ha fatto Deschamps. Comunque sia, cioè l'abitudine di vincere che hanno avuto sempre gli juventini, beh, penso che sia un diritto non sacrosanto, l'importante è cercare di essere sempre primi, ma non per forza arrivare primi, quindi mi sembra che tutta questa polemica assurda che si sta montando contro un tecnico Ranieri, che probabilmente qualcosa ha sbagliato, nulla di particolare, però mi sembra veramente veramente un linciaggio tipo quello che hanno fatto a Mancini, che dopo 3 scudetti, 2 Coppa Italia è stato silurato da uno che è arrivato e che per ora non ha dimostrato niente. Cioè, no, è vero, è stato buttato fuori dalle coppe, se vince il campionato non fa altro che la cosa più normale. Il minimo sindacale, su questo sono d'accordo Alessandro, però vedere la Juventus giocare, perché poi adesso dicono ieri come il Chievo, intanto il Chievo in giornata è una squadra oggettivamente superiore al Lecce, ma al di là di questo, quel giorno contro il Chievo ci furono delle esitazioni della Juventus che portarono a un 3-3 che indubbiamente fece una discreta sensazione, ma un pareggio ogni tanto in gara ci può stare, ma il primo tempo di ieri contro il Lecce è qualcosa che nella storia della Juventus credo che si sia visto poche volte per bruttezza, ma sto dicendo storia della Juventus, non cronaca. Quindi insomma è anche questo, senza che ne sia responsabile l'uno anziché l'altro, ma insomma che si carichino un po' i toni di fronte a prove così, credo che sia abbastanza inevitabile. Daniele chiama dalla provincia di Udine, buondì. Buongiorno. Dica. L'ho sentito parlare prima di barriere che andrebbero innalzate, perché insomma ci sono qualche problemino nei vari stadi italiani. Niente, volevo solo così far ricordare che a Udine già da un paio d'anni le barriere non ci sono più, ed è uno stadio di Serie A, dove ci sono steward e non polizia all'interno, salvo chiaramente il settore ospiti, perché non sai chi ti viene in casa. Vede, quindi che intanto non sai chi ti viene in casa e ne hai una vaga idea, primo. Secondo, congratulazioni a Udine e all'Udinese, ma anche ai friulani per questa prova di maturità. Io nel congratularmi con i friulani, questo rischio nel resto d'Italia sinceramente non lo correrei, e comunque non comincerei da lì se vogliamo cambiare qualcosa nel calcio italiano. Credo che dobbiamo cominciare da tante ma tante altre parti. C'è ancora Simone in linea dalla provincia di Milano. Dica, buongiorno Simone. Pronto? Buongiorno Simone. Sì, sono Mario. Ha sbagliato, niente, chiedo, di male. Chiedo scusa, niente. Dica Mario. Io volevo dirle solo una cosa, innanzitutto che la partita più bella a livello di club è stata secondo me un Milan-Parma, con il Parma di Scala e il Milan di Sacchi, una supercoppa italiana 2-1 per il Parma, fantastico. È molto bella, la ricordo, molto bella. Così lei ha già anticipato un argomento di domani, ma comunque bene, sì. Io sono un tifoso dell'Inter, però me la ricordo veramente come una partita. Una grande partita, verissimo. Una grande partita. E poi volevo dirle, cosa ne pensa lei del fatto dei continui fischi, degli arbitri che fischiano tutto, quello che c'è e quello che non c'è, ma che tolgono intensità e fluidità alle azioni di gioco e rendono il tempo effettivo delle partite intorno ai 45-50 minuti. Penso che se in campo c'è la lealtà che c'è sui campi inglesi o anche a Madrid l'altra sera tra Real e Barça, tolgono tempo. Se ci sono in campo gli scarponi che c'erano ieri sera in Genoa-Sampdoria, sono costretti purtroppo a fischiare, a intervenire per evitare che degeneri ulteriormente, perché già 3 espulsi e 10 ammoniti possono bastare. Grazie a Filippo Aureggi in regia, a Flavio Suardi in redazione. Appuntamento a domani.